Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Un'associazione di imprenditori agricoli che lavorano per migliorare il proprio prodotto, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Questa è Ambrosia, appunto un'associazione che esiste da parecchi anni nel territorio veneto, di cui abbiamo oggi come ospite il fondatore, nutrizionista, anche zootecnico, Benito Mantovani. Benvenuto, dottor Mantovani. Grazie. Ecco, quello che vorremmo un po' capire, visto che siamo molto interessati soprattutto in questo periodo alla qualità anche dei nostri prodotti, intanto che cos'è Ambrosia, cos'è lo scopo della vostra associazione? Allora, Ambrosia è un'associazione di imprenditori agricoli, cioè dal produttore al trasformatore e al distributore e ai consumatori. È una filosofia, un'associazione che ha una sua filosofia, che è quello di produrre degli alimenti con caratteristiche nutrizionali oggettive, documentabili, e ottenuti attraverso il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente, il che in definitiva per la tutela della salute del consumatore. Ecco, perché viene fuori che già solo ragionare sul benessere animale, quindi che ha un benessere sia a livello di come si ciba, come si nutre, ma anche di come vive la sua vita, già solo questo ha dei benefici effetti sul prodotto poi animale, di origine animale, che si va a consumare. Esattamente, tanto è vero, faccio un esempio pratico. Se l'animale sta poco bene, oltre a dare delle produzioni che sicuramente non sono al massimo da un punto di vista igienico-sanitario, io devo curarlo, e curandolo devo adoperare degli antibiotici. E questi, i residui degli antibiotici, dove vanno a finire? Vanno a finire, vengono emessi dall'individuo attraverso le deiezioni, le quali deiezioni vanno sparse sui terreni, e quindi inquinamento ambientale. Per cui meno si adoperano sugli animali, meno inquinamento. Quello che noi tendiamo di fare è di eliminarli quasi totalmente, non completamente, perché se l'animale sta poco bene, ma dal momento che si fanno delle alimentazioni ben equilibrate e si è attenti al benessere, difficilmente vengono utilizzati. Ecco, io ho conosciuto la vostra associazione perché avete presentato un latte particolare a cui avete dato il nome di Latte Regis, ma poi ci sono anche una serie di altri prodotti che proponete. Che cosa hanno quindi di particolare questi prodotti, in particolar modo il latte? Ecco, assomigliano per quanto concerne i nutrienti che contengono.